Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Che cosa succede al suolo se cementifichiamo un'area o al contrario se la riportiamo a verde? Se realizziamo un supermercato o una nuova strada o se al contrario creiamo un corridoio ecologico? E come i cambiamenti a carico del suolo ricadono sui servizi che esso offre? Parliamo di cibo e di capacità di trattenere le acque, per esempio, ma parliamo anche di dissesto idrogeologico. In realtà, a parte situazioni di evidente incuria o anche peggio, che pure non mancano anche nel migliore dei casi, valutare questi effetti è un compito difficile che richiede forti competenze specifiche e la disponibilità di dati non sempre facili da reperire e da mettere a sistema gli uni con gli altri. Ed è qui che veniamo al tema di stasera. Parliamo di Soil Monitor, una piattaforma internet a libero accesso dedicata a tutti coloro, tecnici e politici in particolare, che hanno responsabilità in termini di pianificazione urbanistica e del paesaggio. Soil Monitor è stato presentato lo scorso 28 giugno a Roma ed è nato da 3 anni di lavoro del CRISPI, Centro di Ricerca Interdipartimentale per il Supporto alla Gestione del Paesaggio e dell'Agroambiente, di cui abbiamo in linea uno dei fondatori, Angelo Basile. Buonasera Basile. Buonasera a lei e radioascoltatori. Allora, senta, ci faccia qualche esempio, ci faccia capire che cosa consente di fare Soil Monitor. Attualmente c'è un sito www.soilmonitor.it e si va lì e si trova intanto una cartina dell'Italia in falsi colori. Eh sì, Soil Monitor permette di fare tante cose, ovviamente dalle più semplici e immediate, come per esempio controllare per tutto il territorio italiano, per qualsiasi area che si vuole. Qualunque anche comune, no? Il proprio comune, anche semplicemente disegnando la propria azienda, quello che si vuole. Per esempio, come è stata l'evoluzione negli anni, se si è urbanizzato di meno, quanto suolo si è perso, quanto si è guadagnato, quindi diciamo delle statistiche per conoscere l'evoluzione del proprio paesaggio, che è una cosa importante da sapere prima di vedere cosa bisogna farci, certo, con questo paesaggio. Certo. Ecco. Poi si va a cose sicuramente più complesse, ad esempio lei faceva l'esempio, si vuole costruire un ospedale, pensiamo a una cosa molto utile, ecco. Sì. Un ospedale in una zona più rurale o comunque diciamo non già cementificata, diciamo così. Sì. È necessario farlo, dove farlo? Ecco, il Soil Monitor ci aiuta perché ci dà tutta una serie di indici, per esempio se farlo in una certa area per mantenere dei corridoi ecologici, che quanta perdita netta di cibo potenziale perdiamo per l'autoapprovvigionamento in Italia, quanto in qualche modo frammentiamo il territorio rurale, quindi lo disperdiamo. Sono tutta una serie di indici che gli urbanisti utilizzano spesso, qui sono tutti assieme, danno un'idea completa per tutto il territorio, certo, nazionale. Certo, diciamo che per progettare bene bisogna prima di tutto conoscere, poi questo non è sufficiente se uno ha già intenzione di progettare male, ecco, ma voglio dire... E questa è un'altra storia, per progettare bene però bisogna per intanto conoscere. Ecco, su che scala quindi è possibile lavorare? Abbiamo detto senz'altro almeno sulla scala del comune, cioè uno individua un comune, un'area anche più piccola e la vede divisa in vari colori a secondo per esempio dell'uso del suolo, no? Sicuramente, dottore, sulle regioni, province, comuni, quindi tutto quello che è amministrativo, perché è fondamentale, certo, può essere controllato. E poi fino a una risoluzione di 20 metri noi possiamo anche disegnare come con il mouse la nostra azienda, okay, un territorio di cui siamo interessati, come per qualsiasi motivo. Sì. Ecco. Quindi c'è grande libertà e possibilità, fino ad ora una risoluzione spaziale di 20 metri, anche se forse arriveremo a 5 metri valore minimo. Ecco, questo già ci fa capire insomma che al di là dei dati di cui già disponete, voi state continuando a lavorare, cioè quello che si può vedere adesso è in realtà abbastanza un prototipo. Ecco, dove vi proponete di arrivare e che cosa manca a questo punto? Quello che manca fondamentalmente è l'informazione sulla qualità del suolo. Cioè perdere, come si dice, 55 ettari al giorno, consumarli, non è la stessa cosa se si consumano certi suoli. Vuol dire tutto o niente, sostanzialmente, lei dice. È un discorso medio che può andare bene per capirci a livello giornalistico, ma sì, poi sì, chi deve operare deve dire dove, quando e quanto vale questo suolo. Quello okay che manca è l'informazione nazionale su questo. Abbiamo dati frammentati con le regioni e non si riesce a avere un quadro d'insieme è quello che manca. È quello che manca, e qui c'è un problema di carattere anche legislativo, se ho ben capito. Assolutamente, manca una legge, si sta lavorando, c'è maggiore attenzione anche da parte dei politici, degli amministratori su questo. Recentemente è ripartita una discussione sul DDL 1181, una legge quadro sul consumo sul suolo, e quindi ingloba anche il tema del consumo di suolo, solo che appunto finché non diventa legge. Però diciamo che si sta incamminando, devo dire che la sensibilità è superiore a qualche anno fa. Grazie Angelo Basile, allora buon lavoro. La ringrazio a lei e agli ascoltatori. Va bene, ci fermiamo qui, appuntamento come sempre a domani sera, buona continuazione qui su Radio 24.